alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Claudio Bigagli legge Il deserto della Libia di Mario Tobino. È facile in Libia incontrare le streghe. Sono vecchie dalla pelle color tabacco, coperte da un lacero straccio. Mostrano nude le secche gambe con la cotenna di sudicio che sale su dal calcagno. Camminano per le sabbiose strade dell'oasi stringendo con la mano adunca un lungo bastone che ad ogni passo battono in terra come ad annunciare il loro arrivo. Le giovani arabe in Libia sono sempre rinchiuse dentro le case e quando raramente escono sono tutte chiuse, compreso il volto, dalla stoffa del loro manto, al di fuori degli occhi che spiano lucidi da uno spiraglio che essi allargano o restringono. Quelle vecchie invece continuamente si incontrano e spesso non si tappano il volto ed è possibile contemplare la cispa che cola dai loro occhi, il labbro inferiore pendolante, i sudici spillaccheri che come serpi si gettano dalla fronte e l'espressione di tutto il viso che sembra alberghi soltanto odio e piacere a sgozzare i bambini. E camminano in fretta come un crepitio di sterpi ballasse loro intorno a sospingerle e a comandarle. Quando gli italiani si trovarono in Libia, non incontrarono che queste vecchie, che le altre arabe furono ancora di più serrate dall'implacabile gelosia dei loro uomini. Il tenente Marcello, che era sempre stato un sincero e avido ammiratore della bellezza femminile, davanti a quel triste spettacolo non si trovava a suo agio e si ripeteva che ci doveva essere la bellezza delle mille e una notte. La 31ª sezione sanità, chiusa e assonnata nell'oasi di Sorman, priva del mondo, aspettava di ricevere l'ordine che la trasferisse nell'infuocata Marmarica, dove c'era la guerra. In quel pigro ronzio di calore, i soldati della sezione alzavano ogni tanto gli occhi a contemplare quella natura e coloro che l'abitavano. Marcello aveva, come si è detto, tra gli altri, conosciuto il patrizio dell'oasi, un ancor giovane arabo di nome Mahmoud Ben Mohamed, un uomo bellissimo, alto, sempre rapido ed energico nei movimenti, come se uno spirito guerriero gli bruciasse di continuo nella persona. Si presentava all'accampamento adornato delle più fresche tuniche orientali, e il turbante bianco, immacolato, che gli fasciava la testa, disegnava ancor di più la precisione dei bruni lineamenti. Sapeva a perfezione l'italiano, cosa quanto mai rara tra quella popolazione poverissima e assolutamente ignorante, almeno per quello che consideriamo noi essere istruiti. Marcello, fin dalla prima volta, l'aveva interrogato fittamente sugli usi e segreti arabi, e Mahmoud aveva risposto con rapida gioia, perché sentiva nelle domande di Marcello l'ammirazione e il rispetto per il suo popolo. Certamente Marcello, da quando in una mattina felpata di sole, come da infiniti pieghettati raggi elettrici, era dal piroscafo sceso in Libia, era stato affascinato da quel mondo così vivo di silenzio, e più i giorni passavano, più l'incanto trovava radici nella sapienza di quei costumi, nella voluttuosa meditazione di cui gli arabi sono capaci, e a questo si aggiungeva che le oasi sono fatte di colori tenui e limpidi, le palme tentennano ebbre nel cielo, e chi abita in loro, o forse era la natura di Marcello che nelle oasi aveva trovato suo nutrimento, è portato con l'immaginazione a fluire spontaneamente un fiume di danze amorose che con felice grazia si cambiano in sanguinanti scene di guerra con cavalli furenti l'un contro l'altro e lame affilate che volano verso la sudata carne nemica. Ma insomma Marcello, che per tanti anni era stato un sognatore sdraiato nella povera Toscana, qui trovò frutti che gli si adattavano e le sue 100 braccia si allungavano su altrettante piante. Ma intanto Marcello, come tanti altri della sezione, aveva inavvertitamente preso delle abitudini ed era solito nelle prime ore del pomeriggio, quando il sole era così immobile da sembrare infisso dentro le cose, passeggiare nei pressi dell'accampamento. Il paesaggio che lo circondava non aveva colori, la sabbia e le cose si confondevano nella stessa tinta consunta e se un colore davvero appariva, per esempio il rosso, era sangue. Infatti un vessillo di quel colore che pendeva da un nudo fortino al lato dell'accampamento così ratteneva gli sguardi come sangue di torero rimasto sull'arena. E a Marcello, in uno di quei dopopranzi, mentre passeggiava, sorse davanti, sbucando da dietro un fico d'india, un ometto con le scarpe gialle e il solito manto bianco, il volto furbo, insieme incerto. Era il custode del mercato di Sorman. Perché per il suo mestiere era in contatto con gli europei, aveva le scarpe invece delle babbucce e aveva la cravatta. In un rudimentale italiano domandò a Marcello se veniva a visitare sua moglie malata d'occhi. Era un'osservazione ormai vecchia che le case dell'Oasi, così costruite di quattro muri chiusi e del colore di sabbia, e sempre prive di vocio, di canti e perfino di litigi, erano oggetti appena distinguibili da ciò che le circondava. Il custode indicò la casa e Marcello vide infatti a poca distanza una costruzione che non gli parve prima di aver notato. Era di color ocra vecchio, più vasta e alta delle altre. Marcello si avviò accompagnato da quel personaggio nel quale era evidente germogliassero due piante, il mondo arabo e il progresso europeo. Il custode fece fare a Marcello un giro intorno alla casa e per una guardiola così stretta da far apparire più alte le mura, furono in un vasto e nudo cortile dove in fondo, in una riga d'ombra, era accovacciato un uomo, uno storpiato, che non si mosse né parlò, ma con gli occhi feriva tutto ciò che vedeva. E appena entrò Marcello, questo divenne la sua mira. Custode guidò Marcello fino a una stanza formata a sottile rettangolo, ricoperta da un soffitto di bruni travicelli. La luce proveniva da un buco che c'era nel muro e dalla stessa porta. Sedute alla maniera araba, su stuoie polverose, stavano tre donne chiuse fino agli occhi. La loro veste era di color marrone con delle righe di un colore cupo. Nella stanza non c'era nessun mobile. Il pavimento era formato dalla sabbia. Marcello capì che il custode l'aveva appostato sapendo che a quell'ora passeggiava da quelle parti e aveva ordinato alle donne di prepararsi e attendere. Marcello domandò chi era la malata. Il custode disse «quella» e indicò la donna che era nel mezzo. La mano della donna indicata, che stringeva davanti al volto il baracano, era magra e pallida. Il custode ordinò in arabo alla donna qualche cosa. Quella aprì la mano e apparve il volto. Era un viso avvizzito di una fanciulla di non più di 15 anni. Gli occhi erano bianchi, perché era cieca. Aveva i capelli piatti, divisi in due sulla fronte. Dopo che ebbe ubbidito, stette immobile, poiché cieca non si muoveva verso nessuno. Si comportava umilmente, come mai avesse veduto. Marcello si avvicinò, si inginocchiò davanti a lei. Il tracoma, la malattia dell'accecante deserto, aveva steso un panno bianco sulle due pupille. La fanciulla aveva il mento sottile e appuntito e tutto il viso aveva quel pallore che hanno le persone vinte da una disgrazia che non provoca più né lacrime né disperazione. Ma un bambino che era dentro un involto sulla stuoia al lato della donna cominciò a piangere. La ragazza lo prese, se lo mise in grembo, tirò giù il baracano e apparve il seno pallido, pendulo, avvizzito. La spalla era magra e delicata. Marcello, mentre il bambino si era attaccato al capezzolo, si avvicinò con le dita ai bianchi occhi della donna, alzò la palpebra e apparve il prolungamento di quel panno bianco. Nella stanza le altre due donne erano rimaste sedute, coperte nel volto, i loro occhi spiavano ironici dallo spiraglio. Il custode era rimasto in piedi con quell'aria tra il sensale di vacche e lo scaccino. La visita era finita. Marcello si avviò e subito fu nel cortile, composto da terra secca per pavimento e all'intorno da muri nudi, che infatti gli arabi quasi non conoscono i fiori e nessun adornamento. In questo vasto cortile c'erano ora tre arabi, vestiti di una corta camicia che lasciava le gambe nude, e ai loro piedi c'era un bricchetto blu, microscopico, in tutto quel disabitato. Marcello, vedendo il bricchetto, capì che ora si doveva sottomettere alla cerimonia del tè, al giulebbe di quel liquido ambrato che provocava un'eccitazione di immagini visive. Intanto il custode domandò a Marcello che malattia avesse la ragazza. Marcello gli rispose che era cieca. Ma qui lo stupore del custode stupì Marcello. Il custode esclamò: «Non guarda?» Allora Marcello, che già si velava di noia per il sospetto del tè, si inquietò contro quell'ometto che aveva preso per terza moglie una ragazza di 13 anni, l'aveva avvizzita, tenuta in catena, al buio, ed essa diveniva cieca, ed essa gli aveva dato un bambino, e non aveva osato confessare che perdeva la vista, forse per paura delle bastonate o per un altro terrore. E lui soltanto la cercava nella notte, su quelle sudice stuoie, quando la lussuria gliela indicava, e mai alla luce l'aveva guardata accorgendosi che brancolava. E Marcello esclamò: «Ma come? Non vi siete accorto che quella ragazza diventava cieca? Ma non è vostra moglie, non ci parlate?» E Marcello in quel momento capì che cos'è un harem, che quel piccolo uomo con le scarpe gialle era padrone di vita, morte e lussuria su quelle 3 donne che valutava soltanto come carne per il suo piacere. Intanto sulla secca terra del cortile era già in funzione il bricchetto blu su un fornellino a carbone che avevano aggiunto e già rosseggiava di fuoco. Ma poiché Marcello si avvicinava all'uscita, i 3 arabi corsero intorno a lui protestando con un misto di umiltà e superbia: «Tè, prendere tè!» E con gli atti l'espressione significavano che non mancasse di gustare una tale bevanda e di celebrare un tale rito. Marcello si rigirò a prendere il tè, durante il quale ci furono le solite esclamazioni sulla sua squisitezza, e continuò sotterraneo il tema predominante degli arabi: le immagini sensuali, la gelosia, le donne che sono chiuse là, in silenzio. Ma questo harem del custode con le scarpe gialle non distolse Marcello dal pensare che da qualche parte ci doveva essere la bellezza delle 1001 notti. E qualche giorno dopo arrivò alla sezione la voce di un soldato, che era stato alla casa di Mahmud a portare una medicina, una voce che diceva di una ragazza, di forse 17 anni, di bellezza meravigliosa, la quale fuggendo rideva e si era ricoperta il volto che prima aveva nudo. Marcello interrogò il soldato, ma questi gli fece una relazione assai più vaga di quella che aveva fatto ai suoi camerati appena di ritorno, forse anche per il timore di essere in colpa. Infatti, quando la sezione era arrivata nell'oasi, dalle superiori autorità militari era stato raccomandato di non dare noia alle arabe, unico tasto pericoloso presso quella popolazione, ed era stato aggiunto che del resto i soldati perdevano ben poco, perché erano quelle vecchie dall'aspetto di streghe, i soggetti della gelosia araba. Marcello, appena Mahmud ritornò dall'accampamento, con più attenzione se lo tenne vicino. Mahmud, il patrizio dell'oasi, aveva una ricca natura che le circostanze avevano fatto complessa. Era un arabo, un maomettano, un fanatico del Corano, dell'oasi, del deserto, ma era colto, era illuminato, sapeva l'esistenza della civiltà, del progresso, della scienza. Inoltre era ricco ed era costretto con dolore a misurare la ignorante miseria in cui vivevano gli arabi. Inoltre il suo paese era sotto il dominio straniero e lui, orientale, pur mantenendo la dignità, simulava riverenze, ma qui gli succedeva un trabocchetto. Per la sua passionale natura, frequentando gli infedeli stranieri, finiva a collegarsi d'affetto con qualcuno e allora, senza avvedersene, smetteva la diffidenza e la simulazione e aveva invece atti gentili di fanciullo. Marcello cominciò furtivamente a correre come fanno i topini che aspettano di uscire da una stanza all'improvviso troppo illuminata, che trottano rapidi dietro a un gambo di sedia, scantonano, si soffermano, via si precipitano con la coda affilata verso l'agognato bruno spiraglio. Era una considerazione frequente che gli italiani disprezzavano gli arabi poiché essi non si genuflettevano alla meccanica europea. Per questo li consideravano dei ciechi miserabili e quando ci conversavano dalle loro parole traspariva questo giudizio. Marcello, che spontaneamente li stimava, quando seppe che c'era la bellezza delle 1001 notti, fu più attento al suo amico Mahmud. Se c'è un giocoliere che agli spettatori dell'Ottocento si presenta e fa loro piegare dal sudore la marsina dal trasecolamento, tale fu Marcello con il giovane patrizio dell'oasi. Non è facile riferire come si comportò. Mahmud sapeva l'italiano e Marcello con lui poteva tessere sottigliezze e perfino arrivò, dopo diversi confidenziali colloqui, a dirgli che anche lui era religiosissimo, benché cattolico e praticante. Marcello aggiunse, come cosa ovvia, che era un ammiratore dei riti musulmani. E un dopo pranzo, che più le confidenze erano delicate, gli confessò che considerava giusta la gelosia degli arabi e non si stupisse se gli diceva che in Italia molti erano simili agli arabi. Già Mahmud aveva invitato a pranzo in casa sua gli ufficiali medici della sezione. Dopo pochi giorni invitò il solo Marcello, che considerò questo suo ingresso nella casa della fanciulla una prima conquista. Sin dall'entrata gli parve che da ogni silenzioso angolo della casa partisse una vibrante attesa. Il pranzo si svolse così. Marcello stava seduto, Mahmud lo serviva come officiasse. Erano soli. Mahmud ogni tanto andava di là a prendere il cibo che le donne, forse anche la fanciulla, avevano preparato. Era l'uso arabo. Marcello non fece alcuna domanda e solo quando infine prendevano il tè nell'aia davanti alla casa, tra quei pallidi colori, ed erano sopraggiunti il vecchio padre di Mahmud e il giovane fratello, cominciò a discorrere di cose giornaliere e in gran parte riguardanti l'acquisto che voleva fare di un barracano tessuto con speciale cura, proveniente dalla Tunisia, con la quale poi Mahmud aveva un certo traffico. Dopodiché si congedò. Nei giorni seguenti ci furono altri colloqui e già Marcello stava abbandonando le speranze di vedere la ragazza, quando una sera Mahmud lo pregò di venirgli a visitare la nipote che aveva dei disturbi, e cioè si sentiva stringere la gola, era pallida e dimagrata. Questo invito fu fatto da Mahmud senza dimostrare diffidenza. Marcello, dichiarandosi onorato, non fece trapelare né gioia né malizia. E il giorno dopo, verso le 4 del dopopranzo, Marcello partì dall'accampamento, percorse le sabbiose strade dell'oasi come camminasse in punta di piedi verso un appuntamento d'amore che offre pericolo e si svolge sotto i raggi della luna, e fu nel cortile della casa di Mahmud, al solito contornata di silenzio, che a Marcello sembrò ancor più vibrante della volta precedente. Mahmud cominciò a parlare di altre cose. Marcello rispose. Erano in una stanza rettangolare con un baldacchino in fondo, che Marcello cercò di non guardare. D'un tratto Mahmud, come mosso da una sciabolata, si voltò verso la porta e sparì. Probabilmente era andato a prendere la nipote che di là attendeva. La stanza dove Marcello era rimasto solo era così composta: un rettangolo lungo circa 8 metri e largo 3. Da una parte, in fondo, c'era il letto da sultano che poteva contenere 3 o 4 donne. Dai suoi angoli sorgevano le colonnine di legno tinte di verde pisello che sorreggevano un'asta dalla quale forse dovevano cadere delle tende, che però non c'erano. L'asta era tinta di viola. Il letto aveva un'unica e sottile materassa di lana ed era assai duro perché al posto della rete metallica c'era un tavolo. La stanza non aveva altri mobili. Sul pavimento c'era una stuoia quadrangolare sfilacciata ai margini. La ragazza entrò con Mahmud. Era coperta fino agli occhi. Al solito Marcello fu richiamato dalla mano che stringe la stoffa del barracano davanti al volto. Le dita serpeggiavano senza direzione. Gli occhi che guardavano dallo spiraglio erano due folletti. Mahmud si allontanò di circa 2 metri e si voltò. Marcello era rimasto davanti alla ragazza. Fatma aprì la mano. Apparve nuda. Aveva un volto bellissimo. Rideva di un soffocato singhiozzo. Le mani le rimasero per un momento una lungo l'agile fianco nudo, l'altra in aria, all'altezza del giovanile petto. Marcello sentì nel suo cuore correre una paura, ma intanto capì che se voleva prolungare la visione, doveva tenere i denti incisi in ogni incastro. Mahmud stava con le spalle voltate, forse era la sua religione che voleva così. Marcello, con la voce più possibile consueta, cercando di imitare un ragioniere assonnato, gli fece una domanda in italiano. Lui la tradusse alla ragazza. La voce di Mahmud era diventata aspra. La ragazza rispondeva a Mahmud monosillabi. Mahmud traduceva a Marcello. Marcello poggiò l'orecchio sul petto della ragazza. Il suo cuore batteva come un uccellino inseguito. Respirava intercisa, col respiro che spesso si mozza. Il più grave ostacolo Marcello lo trovava nel non poter stare tanto tempo in silenzio, se non Mahmud si sarebbe forse voltato. E inoltre sentiva che la sua voce tradiva l'emozione. Come rimedio faceva domande brevi e pronunciate con rapidità. Per pochi attimi Marcello mise la mano sui seni della fanciulla. ma era così turbato che subito gli sembrò di non averli toccati. Mahmud era ancora voltato come se aspettasse la fucilazione alla schiena. La ragazza non aveva alcuna malattia, rideva soffocata e aveva ripreso a muovere le dita come in uno spasimo. La visita finì. La ragazza si richiuse, compreso il volto. Allora Marcello davvero vide davanti a sé, precisa, l'apparizione di quella bellezza così intatta di curiosità. E tutto di nuovo era sparito. La rabbia era un mistero, come era sempre stata, compreso Mahmud che si era rivoltato e aveva pronunciato aspro verso la ragazza l'imperativo barra, cioè via di qui. Marcello si mise a descrivere a Mahmud i sintomi di una malattia e così parlando malinconicamente guardava alla stessa altezza dove prima era il volto della ragazza. Aveva la fronte purissima, i capelli neri un po' scomposti come chi usi un unico pettine dalle maglie troppo larghe, gli occhi neri e vividi un'allegra pazzia, il naso piccolo e delicato, ma erano le guance, la bocca, l'ovale del volto che la facevano bellezza dell'Oriente, quella bellezza che si è immaginata e sognata senza mai avere il sospetto di poterla realmente incontrare e parlarci e perfino toccarla e sentirne il battito del cuore. Mahmud ascoltava attento. Era chiaro che credeva alla scienza, ma il programma non era esaurito. Mentre Marcello accennava a finire la descrizione della inesistente malattia, Mahmud gli domandò se visitava anche sua moglie e sua cognata. Marcello immediatamente abbandonò le malinconie, ripeté che era onorato. Mahmud uscì per andarle a prendere. Marcello, rimasto di nuovo solo, si rimise con attenzione a osservare il baldacchino orientale, il letto di Mahmud, e meccanicamente si ricordò le storie arabe che il colonnello Sacchetti gli aveva nei giorni precedenti raccontato con tanta appassionata precisione. Il colonnello Sacchetti era un vecchio ufficiale della Libia e benissimo conosceva gli arabi e la loro lingua e perfino i dialetti delle differenti regioni. Aveva abitato in quasi tutte le oasi, percorso i deserti e ogni luogo gli era apparso di straordinaria bellezza. Quando poi parlava della Cirenaica era come ricordasse il paese natale e la descriveva come un paradiso terrestre dove l'orzo nasce spontaneamente e aspetta i piedi delle belle madonne cirenaiche un poco selvagge. E in queste descrizioni mai il colonnello diveniva romantico o sentimentale, rimaneva invece il limpido e coltissimo soldato che era, e tra l'altro si era abbandonato a raccontare dei cammellieri che fanno viaggi per il deserto che durano 2 o 3 mesi, durante i quali non incontrano nessuno. Il cammelliere parte dalla costa con i cammelli, la donna accoccolata sul primo di essi, i datteri sufficienti per cibarsi. È incredibile come gli arabi abbisognino di nulla, poca acqua. Venuta la sera, il cammelliere si ferma, i cammelli si accoccolano biascicando le loro pallide bocche. Accuditi gli ordinari bisogni, il cammelliere si sdraia sulla morbida sabbia. Intorno è immenso silenzio. Per ogni raggio dove lui guarda è padrone, re, imperatore. In tutto intorno non esiste che la sua legge. E se poi lo desidera, fa cenno alla donna, ed essa abbandona la veste e davanti a lui comincia quella lenta danza del ventre che da secoli accende e incupisce gli occhi degli arabi. Mahmud entrò con le due nuove donne, due belle veneziane, tinte invece del color d'Arabia. Gareggiarono nel trionfo d'essere nude. La cosiddetta cognata fu la prima. Sembrò a Marcello che la stoffa cadesse come piombo che non aspetta che sprofondare. Le streghe in Libia giravano gracchiando, ma queste bellezze ricompensavano tutto. Mahmud di nuovo si era messo con le spalle voltate. Nessuna delle due era malata. Erano tutte e due eccitate ed aggressive. erano alte di statura, nel pieno splendore della vita. Se non fossero state arabe, proveniente da secoli di selvaggio, avrebbero trionfato per le strade, nei salotti, e invece era per loro già un'audacia aver trafficato per farsi vedere da un giovane medico divenuto amico del loro padrone marito. Un giovane che furtivamente avevano visto da uno spiraglio quella volta che Marcello era stato invitato a pranzo. Esse si comportarono con un misto di estrema curiosità e di orgoglio per la loro bellezza, ma più di tutto nei loro occhi e in tutta l'espressione vi era un senso di ribellione e di ostilità per qualche cosa di informe ma pure ben vivente. Marcello, cominciando a visitarle, sentì nascergli un'allegria, come un'elica che gira nel vento. La sua voce, che con la ragazza era rotta dall'emozione, diventò sicura e perfino un po' beffarda. Ma non che osasse qualche cosa più del regolare, Mahmud era dietro di lui, all'improvviso poteva voltarsi e tornare arabo. Marcello lo sapeva, sentiva che il gioco, in quanto si prolungava, esigeva da lui maggiore prudenza. Gli attimi delle due visite corsero e le due donne furono di nuovo chiuse e sparirono dopo l'imperioso barra di Mahmud. Marcello cominciò a spiegare altre due malattie inesistenti. Poi Mahmud offrì il solito tè nell'aia davanti alla casa. Dalle altre stanze non trapelava alcun rumore, eppure le donne erano oltre la parete, a pochi metri. Esse erano tutte e tre in una stanza, il viso liberamente scoperto, e con un abile sussurrio che non poteva arrivare alle orecchie di Mahmud, discorrevano su Marcello, cosa aveva fatto, come era fatto. E sembrava che fossero collegiali che di nascosto sono andate a teatro e ora tra loro scoppiano dalla felicità di commentare ciò che è stato. E negli occhi delle tre donne brillava una malizia infrenabile, sempre accompagnata dall'animalesca paura delle donne arabe. E in verità non sapevano bene cosa avevano fatto e perché, e la loro inesperienza e l'eterna schiavitù le faceva innocenti. Marcello, dopo aver bevuto il tè e aver assicurato che avrebbe mandato le medicine per le tre malattie, si congedò. Camminando per la sabbiosa strada che conduce all'accampamento della sezione, aveva una felicità. Aveva fatto una dolce burla al patrizio Mahmud e aveva finalmente visto la bellezza delle mille e una notte, quella bellezza che acquista pregio perché segreta e rischiosa. Come una vecchietta testarda che infine ha vinto all'otto il terno secco e per la strada che la riconduce a casa straripa trionfo nelle onde dello scialle nero e nelle grinze della faccia, così invece compostamente, ma brillando per tutto l'essere, ritornava Marcello all'accampamento. E già riconosceva che non ci capiva niente e di più non avrebbe afferrato, che non avrebbe mai saputo con precisione perché Mahmud gli aveva fatto visitare il suo harem e perché le donne con tanto abbandono si erano gettata giù la veste. Comunque, quelle tre bellezze accompagnavano Marcello nella via del ritorno e le rivedeva in ogni gesto e fattezza e appena arrivato all'accampamento, invece di mettersi a parlare con qualcuno, si rinserrò nella sua tenda. E sdraiato sul lettino si dispose, in quella calma, a non perdere una goccia di ciò che era stato, a rivivere tutto centellinando tutti e tre i bicchieri. Passando le ore, quelle tre bellezze divennero per Marcello come per l'astronomo tre misteriose stelle, e quando l'attendente grattò il telo e domandò al suo tenente come mai non andava a mangiare, che la sera da un pezzo aveva imbrunito, Marcello si accorse che per i teli della tenda da alcune ore correva furtiva la danza di una madreperla nera e sfaccettata, da paragonare a quei bottoni che le fanciulle hanno sui corpetti neri d'inverno, quei bottoni che brillano opachi e maliziosi come gli occhi delle loro padrone. E allora scorgendola la inseguì con gli occhi ed essa rideva e fuggiva, una luce opaca e brillante che si mostrava ma non si riusciva a comprendere, appariva e subito chiudeva il manto, una luce festosa che spronava alla gara e alla fine si era lieti di esserne battuti, una luce che moriva dalla voglia di essere presa e mai si concedeva, cioè la malizia delle donne. Claudio Bigagli ha letto Il deserto della Libia di Mario Tobino, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, regia di Francesca Zammarelli, ad alta voce @rai.it.